riesci a pensare che un'altra donna come me sa saputo sfuggire. Oggi sbagliato con te è stato male perché tu mi hai deciso che a me non mi voglio fare. Non ti voglio perdere, tu sei indispensabile. E non riesci a vivere se tu non vivi insieme a me. Dai, ti prego, amami, tu mi mandi al diavolo. Non ti faccio leggere soltanto che sta male. Sai di, se è capitato che già fa, non potevi immaginare. Sono stato vittima in un gioco in braccia che la la. Tu per me sei l'unica, non mi stanchi di agnara se non fai pace con me. Quella ragazza però ha tradito anche te, quale amicizia sincera ha tenuto con te. Mo l'ha distrutto perché e se t'ha fatto sapere che ha piaciuto con me, non mi fa perdere a te. Non ti voglio perdere, tu sei indispensabile. E non riesci a vivere se tu non vivi insieme a me. Dai, ti prego, amami, tu mi mandi al diavolo. Non ti faccio leggere soltanto che sta male. Capitato che già fa, non potevi immaginare. Sono stato vittima in un gioco in braccia che la la. Non ti voglio perdere, tu per me sei l'unica. Non mi stanchi di agnara se non fai pace con me. Faccio leggere soltanto che sta male. Sai di, se è capitato da già fa, non potevi immaginare. Sono stato vittima in un gioco in braccia che la la. Non ti voglio perdere, tu per me sei l'unica. Non mi stanchi di agnare.